Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Pasolini, Orgia, una lettura. Con Mariangela Granelli e Francesco Villano. Sound design, Dario Felli. Sono morto da poco. Il mio corpo penzola ad una corda, stranamente vestito. Sono dunque appena risuonate qui le mie ultime parole. Ossia, c'è stato finalmente uno che ha fatto buon uso della morte. Sì, è questo che ho detto prima di ciondolare, impiccato, acconciato in un modo veramente abominevole. Ecco, dunque, quest'uomo che vi parla, appeso alla corda con l'osso del collo spezzato e già freddo, è stato quello che si dice un uomo come tutti gli altri. Non è stato né un poeta, né un pazzo, né un miserabile, né un drogato. Ed è stato con tutti gli altri dalla parte del potere. Del potere che si ha, o a cui solo si partecipa, non ha importanza. Appartenere alla parte del potere, poi, non vuole affatto dire essere uomini di parte. No, no, anzi, chi accetta di essere un tranquillo, anonimo, stimato, detentore anche di una minima parte di potere, vuole con istinto animale che la sua esistenza e l'altrui sia grigia, senza scelte, senza passioni. Nell'orbita del potere c'è dunque la libertà, che è la libertà più vera, la stessa degli animali, di chi non ha urti con la propria esistenza. Sì, io sono stato veramente libero e indipendente, perché ho accettato senza alcuna riserva che ci fosse il potere. Mi ci sono adattato con tutto il conformismo necessario e da uomo normale ho cercato di viverne la mia parte, non grandi cose, sono stato soltanto medio borghese. Per completare dunque il quadro, devo aggiungere che io non sono stato affatto conformista per fare del potere un buon uso. No, no, sono stato proprio di quelli che nella loro libertà non hanno conosciuto né amore né carità né altre difficoltà della coscienza, ma la pace lascia sanguinanti tracce, come la guerra. Un'altra mostruosità in scena i suoi spettacoli al posto delle stragi. E quanta pace qui, in questa pianura tra le Alpi e il mare. Perché ho dunque ho potuto vivere in pace in un periodo di pace del mondo? Una domanda assurda quella che mi faccio dopo quello che ho detto finora. Ecco, io Sono stato in vita un uomo diverso. Questa è la ragione per cui mi sono chiesto: ma come ho potuto vivere in pace dalla parte dell'ordine? È semplice. Nascondendo a me stesso e agli altri la mia diversità. Essa non è mai stata esaminata, capita, accettata, discussa, manipolata. È rimasta vergine, come è venuta al mondo con me o la mia infanzia, e quindi ha soltanto agito. Ma si può agire prima di decidere o senza decidere? Sì. Io ho esaminato, capito, accettato, discusso, manipolato la mia diversità solo pochi minuti prima di morire, per il tempo cioè necessario a togliermi esemplarmente la vita. Ma ha diritto la diversità a restare sempre uguale a se stessa, a non essere altro in tal caso che verifica di scandalo? Ma non deve piuttosto divenire altro scandalo? Ma che cos'è insomma la diversità quando essa stessa non divenga diversa da sé, se non un puro termine di negazione della norma, e quindi parte della norma essa stessa? Ma io non sono riuscito a rispondere a queste domande, se non confusamente, ripeto, qualche istante prima di impiccarmi. Ma se ciò che la mia morte rende significativo della mia esistenza, lo dico ancora una volta, fosse una rappresentazione, io credo che agli spettatori, i miei nemici, che vogliono difendersi da me, credo che gli direi: vi prego, siate come quei soldati, i più giovani di quei soldati che sono entrati per primi oltre i reticolati di un lager, e lì i loro occhi, vi prego, siate giovani come loro. Ecco tutto. E ora, divertitevi. Comincio a tremare. Per quello che ti voglio fare e ti farò. Sì. Tremo per questo. E lo sai cosa ti voglio fare e ti farò? Lo so. E non mi chiedi di non farlo. No. Allora ti piace dunque tremare? Tremare sapendo? Mi piace, come al malato piace conoscere il suo male. Abbiamo tutta la notte per fare quello che io voglio. Parliamo ora con calma di questo tuo tremare. Ma io non so dirti altro che tremo. E ciò offusca la mia coscienza. So bene che se la gente del mondo potesse vedere dietro le mura della nostra casa. Ma la gente del mondo non vedrà, e perciò io mi sento profondamente felice. E in cosa consiste questa felicità? Nel sapere che nessuno sa ciò che desidero. Ma lo so io. No! Neanche tu lo sai quello che io desidero. Non devi saperlo, perché mi saresti di ostacolo. Io ho bisogno di essere sola. Come io sono un automa nella mia voglia di perdere ogni volontà, così tu non sei che il mezzo. che io ho trovato, non so come, non mi importa come, per realizzare in solitudine la mia voglia. C'è forse qualcuno che fa compagnia a chi è impiccato o inchiodato in croce? Il mondo della vittima e il mondo del carnefice sono mondi separati di solitudine. Tu potresti essere solo il mezzo della mia morte, non il mio assassino. E quanto a essere mio marito, lo sei per quel mondo in cui siamo nati. Quante volte mi hai raccontato quando è cominciato tutto ciò? Raccontalo ancora una volta, serva. Allora, serva, eri una bambina. Sì, sempre di poco prezzo. Eri più bionda di adesso. Sì, come un angelo di Santini. Dimmi, prima, dove accadeva tutto questo? Nel tuo stesso paese. Un paese pieno di piste bianche di polvere? E di quegli alberi che ora non esistono più? I gelsi. E cigli con l'erba lunga piegata dalla pioggia. Sì. E cosa diceva la gente? Era la tua gente stessa. Allora dunque non parlava. Oh sì, le sue voci giungevano dappertutto. Il sole picchiava sulle grondaie azzurre di solfato o sui muri di sassi sopra i concimai, e quelle voci rigavano di pace l'angoscia tranquilla del giorno. Eppure nessuno parlava. La mia gente era in verità un po' diversa. Viveva in una città di provincia, c'erano i portici di una loggia dove quelle voci risuonavano lungo ristoranti noti ai forestieri e ai mercanti di buoi. Eppure nessuno parlava. Nessuno parlava. E nella famiglia? Era come nella tua. Un padre che apriva bocca per emettere schifosi suoni di comando, reso torvo come un vecchio soldato dal vino e dalla mezza povertà. E non parlava. E una madre? Incosciente e lontana, come un uccellino che apriva bocca per difendersi o piangere o protestare inopportunamente. E non parlava. Nessuno in quel mondo aveva qualcosa da dire a un altro. Eppure era tutto un risuonare di voci. E tu? Come hai imparato a parlare? Ascoltando quelle voci. Ma ti dicevano qualcosa? E che cosa? Oh, no, no. Erano soltanto voci. Esse, sì, è vero, facevano il mio nome e indicavano tutte le cose che ci circondavano e ci servivano in quel mondo. Ma non parlavano. Com'era divino quel silenzio pieno di voci. Dove non era necessario conoscere. La noi comunicavamo tra noi solo facendo qualcosa. Se mia madre faceva il pollo con la salvia e la torta di farina gialla sotto la cenere. Un padre faceva la strada dell'ufficio, un altro padre faceva il tetto di tegole nuove, un altro ancora faceva le marce coi soldati, e così si comprendevano fra loro. Insegnandoci a non parlare, ecco che cosa hanno fatto di noi. Persone soffocate dalla gioia della vergogna. Sempre la stessa. Sempre la stessa, certo. Come sempre lo stesso l'odore del seme maschile a cui è legata e che nessuno potrà mai descrivere. E io sono come il primo in cui hai sentito questo odore. Sì, Un padre come lui. Un padrone della vita. Era puro? Sì. Perché era come suo padre. E io volli che fosse un semplice animale che mi mangiasse, con l'alito che sapeva di sigarette, le prime, e la pelle di buon sapone. Egli, desiderando disonorarmi, come può fare un adulto con una bambina, sapeva bene che non avrebbe dato alcuno scandalo, che non avrebbe violato nulla, ma non io. Anzi, la sua pace nella legge e la sua fame erano per me il mezzo per ottenere invece scandalo e violazione. Chi possiede è innocente. Chi è posseduto è colpevole. E lo guardavi in quei calzoni? Sì. Ma egli considerava quel mio guardarlo suo diritto e mia tenera, ignara debolezza. E guardavi anche gli altri in quei loro calzoni così spudoratamente pieni di pudore? Sì, li guardavo. Lì era la promessa della mia vergogna, quella bella promessa che rende superstiti pazzi della quieta felicità di vivere ancora. Anche in questa stanza c'è quell'immensità. Senterla. Trovato appunto Cristo il Salvatore, Gesù il Salvatore, l'inganno dell'Anticristo. Che cosa vuoi farmi? Legarti le mani. Perché? Perché tu perda una libertà e ne acquisti un'altra. Quella di essere in mio potere. Così ti vendichi del mondo e tremi di una libertà che ti soffoca di gioia. Mi soffoca di gioia, forse, perché perdo ogni via di scampo. Sì, accettando di essere nelle mie mani. E questo accettare, anzi volere, ciò che non potrei evitare, accresce ancora la mia gioia? Sì, come ogni cosa che si ripete. E che cosa farai dopo? Ti legherò anche i piedi, perché tu stia come una bestia legata con gli occhi luccicanti di gratitudine, d'accordo per bestiale dolcezza col suo padrone che vuole ammazzarti. E cosa farai quando sarò legata? Niente, per qualche ora. Niente. Basterà che tu sia legata, senza più la tua libertà, ma solo con la libertà bestiale del tuo essere felice. Mi spoglierai nuda? Non del tutto. Voglio che tu senta per tua vergogna che io provo vergogna per te. E quando sarò così, mezza nuda, cosa mi farai? Per molto tempo, come tu terrai dentro di te la felicità di essere legata, io terrò dentro di me la felicità di averti legata. E resisterai così per molte ore? Per molte ore, te lo ripeto, forse per tutta la notte, o per molte notti. Noi dobbiamo prevedere davanti a noi un tempo illimitato, perché questo non è un gioco. E non mi toccherai? No, come non toccherò me stesso, riservando anche a me un obbligo da non trasgredire. La tragedia non esclude il ridicolo. E alla fine di tutto questo tempo, quando tu, non io, avrai deciso che è venuto il momento? Vorrò prendermi il piacere di punirti. Ma per quale ragione? Per accontentarti. Poiché il ghigno che deformerà il tuo viso, fingendo il broncio di un'eroina innocente, altro non vuole. E come mi punirai? Umiliando prima di tutto quella coscienza con cui fingi di essere obbediente. Soltanto obbediente. E come la umilierai? Mi scoprirò. Ma in modo che tu non veda, facendoti voltare a calci dall'altra parte. Poi ti sarò sopra sbadatamente, senza voglia, con stupida e innocente brutalità. Poi mi staccherò senza avere gettato il seme. Così vedrai se la tua è obbedienza. Soltanto obbedienza. E mi lascerai ancora legata ad aspettare le tue nuove volontà. Credo che troverò subito un nuovo pretesto per punirti, e non per la tua remissività, ma per la tua complicità. La mia complicità? Sì, la tua complicità, e allora ti punirò come il marito punisce la moglie puttana. Coi pugni, coi calci. Coi calci, cara, il dolore ti farà dimenticare il piacere del dolore. Il fine che desideravi raggiungere distruggerà il tuo desiderio. Allora, cara, non avrò più complici, sarò solo. Il mezzo sarai tu. Un corpo senza coscienza. E tutto così? Sarà finito? Ti farò rinvenire, curandoti per quel tanto che tu possa riaprire gli occhi e capire. Aprire gli occhi su cosa? E capire che cosa? Ma forse questa volta non succederà, ma prima o poi succederà. Che cosa? Me ne andrò a fare un giretto. Oggi è Pasqua, lo sai? Bel tempo e giorno di festa. Non mi sarà difficile trovare degli amici. Li porterò con me qua dentro e gli dirò: fate con questa puttana ciò che volete. E in che modo? E ti lasceranno lì per terra legata, poi ti saranno sopra uno a uno senza neanche baciarti o guardarti in viso. Come una cagna. Sì. Tuttavia, mentre uno sarà chino su te, entrato in te, insieme rimasto fuori, come un estraneo, avrà un'espressione intenta nel viso, sarà forse un poco coinvolto, interessato, ma non illuderti. Appena finito sarà come se non fosse successo niente. E poi? Poi se ne andranno senza darti neanche uno sguardo. Se ne andranno ai loro divertimenti, perduti nella religione di ogni giorno. E non diranno nulla, neanche una parola? No. Li perderò, ma li avrò conosciuti. Li perderò con terrore, ma anche con la speranza di conoscerne di nuovi. E a che cosa ti sarà servito averli conosciuti? Al piacere di contarli, per sapere quanti ce n'è al mondo di così innocenti. L'innocenza peccatrice è un materiale prezioso. Da servirsene dominando. No. Da invidiare con un amore terribile. Io dirò a quei miei padroni di pochi minuti che se ne andranno verso le loro case dove brilleranno le prime luci della sera: arrivederci. Mentre invece saprò che è un addio. Qualcuno di loro nel salutarti sarà anche gentile. La gentilezza operaia che rispetta i tuoi peccati di privilegiata. Ma ciò che mi umilierà più profondamente non sarà infatti la loro brutalità, richiesta e non concessa, ma la meravigliosa labilità del loro caso di coscienza. Quanto amore per il giovane con le guance scavate, gli zigomi alti, la fronte sudata, che mi guarda con quei suoi occhi di bambino resi stretti come delle fessure assolate dalla sua timidezza di operaio nato nel nord. Quanto amore per il giovane Bruno, che viene certo dalla Sicilia, con la bocca del barbaro schiavo, adolescente, cattivo, ma pieno di dolcezza come una madre. Ma le loro anime, i loro caratteri, ma come puoi conoscerli se non ti dicono una parola sola, se ti prendono e se ne vanno? Ma mi parlano con la lingua della loro carne, dalla forma, dal modo, dal tempo, dall'intensità con cui, entrati dentro di me, hanno la loro lunga e breve confessione, dalla violenza e dalla dolcezza, con l'infinita gamma che unisce le due cose, con cui mi usano, dal modo in cui si consumano, ferendo oppure sciogliendosi con una dolcezza sorgiva da esse, comprendo senza bisogno di parole le anime, i caratteri di quei miei amori di pochi minuti. E tu? Niente. Io per loro non esisto. Esisto solo per te, che sei il mio padrone. Puoi fare di me quello che vuoi. Sei sempre l'adolescente che mi ha fatto paura. Bene. Io soffoco dalla voglia di perdermi e di giocare a farla veramente finita. La lingua che siamo costretti a usare al posto di quella che ci hanno insegnato male. La lingua del corpo è una lingua che non distingue la morte dalla vita. Infatti, cara, soffocato da tutta la vita che c'è nel mio corpo, io sono preso dalla decisione di dar morte per morire. Ma credevi che giocassi? No. Tutto quello che ho detto lo farò. E questo non è un gioco, ma realtà. Io voglio veramente ucciderti. Io voglio veramente morire. Quando il mondo aprirà gli occhi, vedrà veramente un altro assassinio. La mia carne vuole veramente la morte. Il mio cazzo vuole veramente il sangue. Cosa pensi? Penso a noi due che ci riaffacciamo alla vita. Vuoi dire che è quasi mattina? Con quel suo sogno di luce? Lo so, ci ritroveremo a quel passo, lo so, l'irreparabile ci aspetta. Ma cosa pensavi? In momenti come questi io ho delle nostalgie, come dei sogni fatti tanto tempo fa, che tornano in forma di cose reali. Forse sono sogni di mio padre e di mia madre, ma io non ho ancora 30 anni. E dunque, come posso ricordarmi di quel tempo? Di quel tempo lontano, quando qui erano tutti i prati, intorno all'amore delle dolci scimmie contadine che non guardavano il cielo se non per pregare. Per tutto il resto del tempo loro guardavano le zolle. In questo sogno io vedo il volto di mia madre, infinitamente più vecchio della sua età. Il volto di mia madre giovane, nella sua innocenza, incapace di profetare, come una cagna. Ma che certezza aveva negli occhi! Ma che me ne importa se quella certezza era il semplice ben pensare dei piccoli borghesi di quei tempi, che sa era schiava del suo essere moglie e madre. C'era tutto l'uomo, come era stato per 12.000 anni, nella certezza di quegli occhi aperti in un paese tra le Alpi e il mare. Anch'io ho le tue stesse nostalgie. Col mondo passato non possiamo fare nulla. Esso si limita a guidarci e a giudicarci. Ed è quel mondo, amore mio, che abbiamo violato coi nostri atti di violazione. Perché era quello, non questo, che meritava di essere violato, che ci dava l'irresistibile voglia di violarlo. Ma in esso, come dici bene, la stessa forza che ci fa peccare ci fa anche non voler peccare. Ciò che bestemmiamo è ciò che preghiamo. La luce del sole Ancora così lontano mi fate venire una terribile voglia di riedificare quel mondo. Ma la voglia di violare e di violarci tornerà. Non voglio saperlo. Fammi vedere le tue ferite. Oh, qua un livido nero. Qua una piaga ancora fresca di sangue. Qua i buchi dei denti sulla pelle bambina. Eternamente bambina. Sei tu che mi hai voluto colpevole di queste tue ferite. Con queste ferite decise insieme, noi abbiamo cullato l'idea della morte per dimenticarla. La nostra realtà non è dunque quella che noi abbiamo espresso con le nostre parole, ma è quella che noi abbiamo espresso attraverso noi stessi, usando i nostri corpi come figure. Ma tu lo sai che è male. Lo so. Ma come potremo mai liberarci da questo male? Se esso è così infinitamente più bello di ogni bene. E cessando di essere ciò che siamo, cioè cessando io col mio ventre, tu col tuo, di usare il linguaggio della carne, che noi possiamo riguadagnare il sogno, salvarci. Ma tu dimentichi che noi siamo sempre vissuti fingendo di sognare la nostra casa, i nostri figli, il tuo lavoro, la mia reputazione. Appunto. Noi non abbiamo la forza di vivere la nostra realtà. Essa ci ha resi schiavi. E a che serve viverla? Se è schiavitù. Ce ne vergogniamo. Infatti, sappiamo che è male. Ci schieriamo con gli altri che se sapessero ci giudicherebbero, giudicandoci al posto loro. È vero. Lo spettacolo che diamo e a porte chiuse. Ma in quanto spettatori di noi stessi ci condanniamo e andiamo avanti così, giorno per giorno, a vivere la libertà della vergogna, ma con la vergogna degli schiavi. Ho capito, tu parli dell'ipocrisia, tu parli del senso di colpa, tu parli della contraddizione della nostra vita. Piccoli borghesi nel sogno che è il bene di giorno, reprobi nella realtà che è il male di notte. Povera complice, ma guarda che cosa hai frettolosamente infilato, come vergognandoti. Un paio di calze. La mamma innocente si è coperta. Se dunque ho già decifrato che cosa vuol dire il livido sulla tua carne, ora decifro le parole di questa calza che è te. E questa calza mi dice di te una sera, con le prime luci che si accendevano, e magari era appena spiovuto, dov'era quella merceria? Tra Pozzanghere Rosa. E guarda qui, tra la coscia e il ventre, guarda, questo reggi calze te l'ho comprato io. Tremando. Ma ero in un negozio della civiltà con una ragazza che sorrideva, centinaia di persone che camminavano per il marciapiede, suonavano delle sirene, delle campane. Poi queste mutandine, guarda, le schiave del tempo. Che cosa dicono le delicate mutandine prodotto della città che è intorno e dentro di noi? Dicono che non solo tu, ma l'intero ordine del mondo è protetto e voluto dalla morte. E noi siamo infatti gente d'ordine, no? Hai mai pensato di sovvertire l'ordine tu? No. E queste mutandine lo dicono molto più chiaramente di te. Non voglio sapere. La sottoveste di seta, abbastanza buona secondo le possibilità della nostra media ricchezza. Ecco qua, copre i segni ancora rossicci di morsi e dei colpi di cinta. Dov'era la verità più vera? In ciò che ci dicono questi segni di sangue o in ciò che ci dice questo segno di seta? I primi dicono ciò che noi desideriamo, i secondi ciò che noi accettiamo. La tua dignità è dunque protetta da questo commovente nulla. Si tratta di un'abitudine a La morte. Ma chi è che ci mette questo pensiero di morte nel cuore? Per mezzo di questa sottana che ci è così cara in questi giorni? Nessuno. Nessuno, infatti, che abbia un volto o un corpo, ma è qualcosa che con la morte ha una parentela così stretta da essere una sola cosa con essa. Il passato? L'esperienza dei padri? La religione? La morale comune, diciamo l'autorità, ecco, l'autorità è da essa che questa sottana trae origine. Tu, indossandola dopo averla amata e comprata, sei anche ciò che essa è. Essa è la bandiera di morte del potere. Ecco che cosa dunque noi accettiamo, la città con i suoi uomini sacri, che ci benedicono, coi suoi uomini potenti, coi suoi uomini armati, con le sue norme, con la sua norma delle norme, che fa l'amore degli altri purezza, il nostro colpa! Ho capito. Della doppia cosa che sono, tu vuoi che io ascolti ciò che è più forte. Fra un poco rintoccheranno le campane del mondo antico, la luce schifosa della luna che ora lascia il cielo all'aurora. Siamo noi stessi apparsi dall'inferno per pregare, pentirci, ritornare all'ordine. Io vi cerco. Help me find a way. Help me find a way. Zanzat. Chiudere. C'è la luna e sento le voci delle televisioni lontane, miste al suo silenzio, come una cosa sola. La primavera, sai, è già inoltrata. Te ne accorgi? La finestra è aperta, ma non si muove niente qui nella stanza. Fuori e dentro, fermo, c'è lo stesso tepore. Aia, ah, ah, ah. Mi fa un po' male dalla parte del fegato. E io ho il solito dolore alle tempie. Ti sei ricordata la pastiglia e il bicchiere d'acqua? Sì, sono sopra il comodino coi fiori. Che cosa leggi stasera prima di dormire? I bambini hanno strappato la copertina. Non mi ricordo più il titolo e l'autore. Si tratta di profezie di professori. I nostri figli le vivranno in pace, in una pace peggiore di ogni guerra. Del passato ricordi solo la pace. Infatti è in pace che vivono i contadini, e contadini sono tutti gli uomini del passato, quel passato che ci sembra felice. Vigilia della nascita di due vermi infelici. No, siamo gente per bene adesso, col suo mal di pancia. In pace. Sì. In pace. E noi due nella pace degli altri. Ma a me sembra che in questa pace si compiano stragi, ci sia un odore di incendi dietro quello del sole. Ma non sei contenta? Lo spettacolo che diamo non è uno spettacolo di pace. Beh, spettatori non ce n'è, ma se ce ne fossero leggerebbero oggi, nei segni viventi del nostro corpo, la storia di un marito e di una moglie che se ne vanno a dormire mentre spunta un'antica luna, con la loro buona volontà, l'onore della legge e l'ordine pieno della sua grazia. Sarà questa maledetta primavera. Ti trovi particolarmente bianco in faccia? Non mi sembra. Vivo sotto il terrore. Vedo il rosa delle unghie così scolorito. Ma sei guarito. Ma da quando dopo questa Pasqua ho visto come il corpo può morirmi. Come avviene la cosa. Ti sei curato e sei guarito. Ma il tuo corpo può sempre voler morirti. al di fuori delle tue cure e della tua volontà. L'unica difesa, pensa, è decidere di non pensarci. Di. Non lo senti muoversi ancora nella pancia? No, non ancora. Sta per nascere il migliore dei nostri figli. Adesso io devo dormire, domani ho una giornata di grande lavoro, in nome del padre, del figlio e del... Sai cosa vuol dire vivere un sogno? Ciò che tu non sei, sei. E ogni notte lo frequenti. Va bene, va bene, va bene, spieghiamo tutto. Tu e io, ora, poi, i nostri figli. Ma non voglio arrivare a quel limite, io. Io voglio semmai andare indietro nel tempo, dove posso sognare di essere come mio padre e mia madre. Non voglio sapere un'altra volta come un innocente può fare orrore. Ma se dormo, che sogni farò? Quelli del passato vicino. O quelli del passato lontano. Per quanto poi io sappia bene che anche nel passato lontano, anche allora, nei tempi del grano che lambiva le città, la ragione che spiegava la vita non era che un modo per andare avanti. Ma quanto mi servirebbe ora quell'inganno? Non ho sonno. Non so uscire da qui. Non so immaginare altro intorno a me, perché non ne sono capace. Perché sono come te, come una piccola borghese col suo bagaglio disperato di idee. E perché adesso mi alzo? Ma ora si è mosso qualcosa nella stanza. Dentro l'aria. Si è mossa l'aria. Ho tutto questo. Non emanerà dal mio cuore che vuole esternare i suoi rimorsi. Sì, io nella veglia parlo di rimorsi. E di che cos'altro dovrei parlare? E dei rimorsi, per la precisione, di aver violato, terrorizzata, quel mondo. Quel mondo dove vola una lucciola lungo dei fossi prostrati al suono delle ultime campane. Era destino che prima lo facessi e ora lo sapessi. Bisogna scandalizzare e tradire quel mondo. Bisogna sporcarlo e bestemmiarlo perché decada, perché si muova e non dia più rimorsi. In questa pace che è caduta sulla mia vita e vi si è fissata come una stagione che non cambia mai, una interminabile mattina di pace, di lavoro, di cose nude e severe, condivise coi vicini al suono della televisione, di discrezione e di dignità, di mistero familiare, quanti rimorsi. Grazie ai rimorsi io non facevo altro che pensare al passato, al male che avevo fatto in tutti i suoi particolari. E quanto soffrivo. Tralala. Rimorso, conservazione di sofferenza. Sofferenza, godimento impossibile da dimenticare. è mai dimenticato, infatti. Ma questo alito d'aria, che è il rinfrescarsi della notte, questo alito d'aria che è il rinfrescarsi della notte, precedendo la breve agonia, mi ricorda solo ciò che riguarda l'amore, il più sporco amore, che è l'unica cosa che dopo l'agonia va veramente perduta, veramente perduta, perché è fatta di carne, che si corrompe. Sì, ma non la carne bella, con la sua dignità del viso, delle spalle, della nuca, no, ma la carne dove è più carne e quindi più muore. La grazia di un viso o la fierezza di un paio di spalle o l'innocenza di una nuca non muoiono, ma ciò che la stoffa di un paio di calzoni protegge, se rigida e se molle, stinta e gualcita, rivela quasi infantilmente, con brutale innocenza. Quello muore. E poiché ogni volta che è stato per miracolo goduto, ritorna a quella sua naturalezza proibita, nella grazia sbadata della vita. Bisogna goderlo mille volte, non lasciarlo nemmeno per un istante. Solo chi, con tutto ciò che può violare, ne è violato sempre, ogni giorno, ogni ora, può dire di vivere, perché vivere è tremare. Poi, quando tutto finirà, non ci sarà un volto immortale e un sesso mortale. Rinuncia, idiota, anticipazione di morte, cretina, fatta in nome dei vicini di casa, di una non meglio precisata vita cittadina. Di un padre e di una madre, giganti, sì, va bene, ma piccolo borghesi e fascisti, di alti ideali che alla fine non contano nulla, come moralità, religione e tutte le altre sciocchezze del genere, tutte chiacchiere della vita. Mentre conta solo il profondo silenzio con cui si tocca, tremando, un grembo. Ecco quello che voglio, senza rimorsi. Che cosa faccio? Vado verso la camera dei figli. Agisco prima di aver deciso. Oppure ho già deciso. Senza saperlo. C'è un fiume che scorre in una pianura qui vicino. La primavera rende la sua acqua torbida e quasi gialla. Io andrò sulle rive di quel fiume. Con la luce che disegna l'immensità delle vite che passano nel giorno, starò un momento su quella riva dei primi di giugno e poi scomparirò nell'acqua resa così tragica, ma ben presto, di nuovo intenta solo a scorrere via. Prima io avrò attraversato tutta la città e quel po' di campagna che è rimasta tra la città e il fiume. Attraverserò cioè il mio presente e il mio passato. Ma non sarò sola, perché prima ancora, qui, dentro questa casa, nel silenzio dei primi sonni, avrò guadagnato la stanza dei bambini. Essi saranno dunque con me a farmi compagnia. Non saranno due compagni vivi, però, no, ma due compagni morti. Infatti, prima di guadagnare la loro cameretta, andrò a prendere un coltello nella cucina di qua. Ed è quello che, muovendo i passi, mi accingo a fare. Ecco tutto. Si dirà: è morta per un soffio d'aria. Casa tua? Ehi, ma questa è casa tua? Ti piace? Sì, è carina. Togliti il cappotto. Ma sei sicuro che non verrà nessuno? Questa è casa mia. Ma ci vivi solo? Sì, ora ci vivo solo. Ora? Una volta c'era mia moglie, c'erano i miei bambini, questa primavera se ne sono andati. E non sono tornati più. Brr, comincia la stagione cattiva, da stamattina è tutto annuvolato. Con la prima pioggia d'autunno e l'estate che non è ancora finita, è il momento più bello per fare l'amore. No, per me è sempre uguale. Non è vero. Ipocrita, col nuvolo ti piace di più stare in casa e chiudere le finestre perché si formi il primo tepore dentro la stanza dove stai chiusa, il tepore degli altri anni. E come sono i tuoi figli? Uno ha 6 anni, l'altro 4, sono 2 maschietti, seri come tanti altri, qualche volta mi sembrano più grandi di me. Allora mi posso togliere il cappotto? Eh sì, te l'ho detto, il più grande è crudele, gli occhi cupi sono pieni dell'amore per la madre, l'altro più piccolo invece è anche lui pieno dello stesso amore, ma gli occhi gli ridono, non gli importa di nulla, lui è leggero e buffo come una bestiolina. Davvero, com'è bello il fresco, qua dentro si sente un bel tepore, sì, sì, pare di essere l'anno passato. Ah, o forse pare di essere fra 10 anni, se sarai ancora vivo. Vedi, questo è un giorno dentro il futuro, ti piace? Ma perché dici se tu sarai ancora viva? Spogliati adesso. Sì, perché io sono stata male, 2 anni in sanatorio, figlio mio. Ah, ma spogliati adesso. Vuoi vedermi che mi spoglio? Sì. Lo sai che mi fai ridere? È finita l'estate, ma hai la pelle ancora scura. Ma non hai un disco da mettere? Non ne ho. Faremo tutto in silenzio. Ma tu, per chi mi hai presa? Per quello che sei. La prima ragazza del primo giorno senza sole d'estate. Ah, così va bene. Ma non ti vergogni a guardarmi negli occhi? No, perché? Perché sei nuda. Come la bestia in un prato. Come mi guardi male? Non ti sei mai vergognata? Poco, la prima volta, ma dopo mai. Ah, ma non pensi al tuo ventre? Beh, con questo... Al tuo ventre, quell'angolo del corpo che tutti nascondono, che non deve esistere, che ognuno finge di non avere, o almeno di non pensarci, di esserne libero. mi fai ridere. Ma chi è che ci ha mai pensato a queste cose? Tu trovi naturale avere il tuo sesso, quel confine liscio in fondo al tuo ventre, lambito da una marea nera. E invece è innaturale, sai? Innaturale. Sì, va bene, dai, ho capito. Ma non ti spogli? No. Perché so che tu sei sporca e ti piace più un uomo discinto coi suoi calzoni che nudo con la sua natura semplice come la tua. Per me fa come ti pare. Ti piace fare male? Cosa? Fare male all'uomo. Oh, hai capito. Ma come? Cosa vuol dire fare male? Ti fa male un uomo quando ti prende a pugni e a calci? A me? Ma guarda che si azzarda solo a alzare una mano, l'ha trovata, Figlia di povera gente, caruccia, carne che si difende anche se costa poco. Ma ti è venuta la faccia bianca bianca e mi sembra che tremi anche, ma cos'hai? Non la faccia bianca, tremo. Forse è questa luce, poi bisogna, io sono un po' malato, sai, bisogna non pensarci. Allora, ti piace fare male? Ma come, come? Ecco, allora, chi è stato l'ultimo che è venuto con te? L'altra domenica era, aspetta, ricordo, sì, un ragazzo siciliano che sta a Bologna a fare il soldato, era venuto qua dai suoi parenti. Era un bel ragazzo, Bruno Castano. Non mi ricordo, pareva tutto un bandito. Allora, pensa che qualcuno, questo bandito, te lo legasse e ti dicesse: guarda davanti a te, quanta forza impotente. Umiliala, feriscila, vendicati della sua pretesa di fecondare la tua consapevolezza è piccola come il tuo destino, ma sei sola con lui, è nelle tue mani, capisci? Fate qualcosa che non è più di questa terra, è fuori di ogni limite, è nello spirito. Non mi riesce di capire. Ma sei sola con lui. Ma questo si sa. Va bene, dai, allora, forza, prendi noi due, che pace. È la prima sera, il mondo non sa nulla, è fatto di uomini che tornano dal lavoro, il fiume delle macchine, senti? L'uomo che sta per fare l'amore, io, come davanti al monumento di una carne piena di sangue, fresco, tu, sta tremando, sai, fino a battere i denti. Aiuto. È in estasi. Mamma, mi lasci, è in estasi. Mi lasci, mi lasci. Non ti farò niente di male, forse. Forse mi basterà la tua paura vera che ti passa per il muso, lo vedi? È un'estasi in cui scompare il mondo e comincia a riapparire Dio. Sì, ma adesso andiamo, è tardi, devo tornare a casa. Lo sai che non me ne importerebbe nulla della tua morte? Perché non esiste nulla se non la morte, eccettuata la mia voglia. Che cosa dici, oddio? Starei qui nelle mie mani perché sei una bambina. Una bambina, un po' bambino, sei avventurosa e fiduciosa come un maschio. Il taglio in fondo al ventre lo dai all'uomo come a un amico, è vero? E così imparerai a fidarti tanto dell'amicizia. Parli come un matto, oddio, lasciami andare. Ti prenderò a pugni e a calci perché non meriti altro per colpa della tua innocenza. Basta, basta, io soffoco dalla voglia di perdermi e di farla veramente finita. No, sulla schiena no. Ah sì? Io ti colpisco dove voglio. Per favore, sulla schiena no. Sono stata al sanatorio, io te l'ho detto. Come ci vanno i poveri? Sei povera e la vita ti bastona, non è così? E io faccio come la vita, Tu forse credevi che scherzassi? Credevi che io volessi... Che io non volessi? Tu credevi che... Mi sento male. Ho la fronte sudata e tremo, come succede quando veramente io, oddio, se questo è morire, ecco qua, la prendo con rassegnazione, non penso a nulla. C'è stato un concertino di angeli contro le pareti del mio cranio. Io lo seguivo con attenzione e rapimento. Non lo sapevo che si stesse tanto bene caduti per terra come fantocci. sul proprio vomito. Sono svenuto. E ho vomitato. Quanta pace tra il vomito e le lacrime. Dov'è andata? Totale solitudine. Ecco, intorno a me i segni della mia nuova realtà. Una casa piena di un silenzio innaturale. Un'assurda corda, pochi stracci, qualche traccia accusatrice di vomito. Che cosa mi rivelano tutti questi segni? Mi rivelano che questa realtà non mi appartiene. Essa appartiene ormai soltanto agli altri, i vicini di casa, i colleghi e quattro poliziotti servi di Dio. Molte paia d'occhi, suppongo, vedranno questi segni, li intenderanno. Era scritto da qualche parte. Era sempre stato scritto. E io non avevo mai voluto leggere. Da una larva bianca, nella sua indecente innocenza, è spuntato un ragazzo, in pube, coi suoi capelli castani e già vecchi, severo servitorello del mondo che stette in famiglia e andò a scuola, pronto a tutto, esperto di ogni accettazione, dedito alla pratica di imparare a farsi degno del comune futuro. Io, per quanto concerne la mia coscienza, l'ho dunque accettato. Il mondo. Io ho chinato la testa. Ma la larva bambina e l'uomo che poi ne è stato servo volevano altrimenti. Io ero terrorizzato dal ricatto della religione. Ma ripeto, questo terrore mi era molto comodo. Molto. Perché mi abituava ad avere terrore di tutto. E così ho abbassato la testa. Mi sono chiuso nel mio guscio, ove, gran Dio, ho poi fatto tutto quello che ho voluto. E ora? Ora. Perché finalmente mi ribello. Un reggicalze di poche lire. Io ho accettato questa sottoveste volgaruccia. Ho accettato le sue grazie alla portata di tutti, la sua innocenza in cui la morte introduce il principio della rassegnazione. Sono stato vostro schiavo, oggetti della mia vita. Di conseguenza voi sarete i segni della mia obbedienza. Ma ora io non sono più vostro schiavo. Ho del tutto stravolto la vostra normale funzione e domattina così voi sarete i segni della mia nuova realtà. Quanto parlerete, quanto urlerete, impazziti, oggetti banali, parole del silenzio e della rassegnazione. In quante occasioni, in quante ore della mia adolescenza, della mia gioventù a casa, a scuola, nelle strade del centro piene di facce note come maschere o in quei viali di periferia dove luccica ancora il tremendo rosa di quelle pozzanghere, quante volte io avrei potuto ribellarmi. E invece, una volta per sempre, lo ripeto, avevo pronunciato un atroce giuramento di lealtà. Ora io mi appresto a rinnegarlo. Ecco, il bonzo è pronto. Allegri, allegri. Dentro una delle tante case di questo quartiere, o per lutto, o nevrosi, o noia del pomeriggio festivo, c'è stato finalmente un uomo che ha fatto buon uso della morte. con Francesco Villano per presentare Pasolini, Orgia, una lettura. Ben trovato. Ciao, ciao Federico, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Cos'è questo progetto? Questo, come insomma tutti i progetti di questo periodo, insomma post pandemia, nasce in maniera abbastanza così immediata da un ragionamento che facevamo con Mariangela Granelli, che è l'attrice che leggerà con me il testo. Appunto, volevamo dare un contributo allo spazio di Spin Time Labs, ovviamente un contributo pensato, ragionato, amato, e questo testo è uno dei testi desiderata, insomma, che noi abbiamo in cantiere da tanto tempo, e ci siamo detti sì, facciamolo lì, facciamolo nel migliore dei modi possibili, appunto in una forma strutturata come lettura concerto in realtà, perché poi ci sarà Dario Felli alle musiche in scena con noi. La caratteristica è che improvviserà con noi, non è propriamente uno spettacolo, è una specie di piccolo concerto live che facciamo. Come avete lavorato? E poi com'è venuta l'idea proprio di questo testo? Il testo è uno dei testi su cui ragionavo da tanto tempo, perché sai, Pasolini è uno di quegli autori amati, odiati, amati perché come saggista, come poeta, come romanziere e poi come cineasta è riuscito a esprimere, credo, la sua forza anche profetica, no? Da questo punto di vista, mentre il teatro è sempre stato un po' guardato con sospetto. Lui stesso si dichiarava un dilettante del teatro. Queste sei tragedie che lui ha scritto negli anni 60 sono state un po' maltrattate. Questo stesso testo non andò bene negli anni 60 quando lo portò in scena lui come regista, ma perché sono testi molto radicali, sono testi poetici, sono testi che in quegli anni volevano parlare di tante cose, di tanti livelli, oltre al livello politico anche il livello ad esempio del linguaggio semiotico. Lui stava iniziando il cinema in quegli anni, quindi sono testi molto complessi, molto stratificati, e proprio per questo amati in teoria dai teatranti, ma allo stesso tempo dichiarati irrappresentabili. Ecco, a noi interessava questo limite tra la rappresentazione e l'irrappresentabilità, e per questo abbiamo deciso anche la forma lettura che ci sembrava più adatta a Pasolini in questo momento. Cosa amavi di questo testo? Il testo è il primo che lui ha scritto e io lo trovo straziante da un certo punto di vista, perché è anche comico, volontariamente e involontariamente, perché è la storia di questa coppia borghese, come ce n'erano tante all'epoca, schiacciata dalle norme, dagli ideali borghesi, figli di un regime poi che era stato quello fascista, che cerca attraverso questo rituale orgiastico, ecco, credo sia opportuno ricordare che orgia nella sezione di Pasolini era il rituale dionisiaco, cioè un rituale di estasi, di parossismo, di movimento, cioè un recupero del linguaggio del corpo per toccare un'estasi, cioè un momento vitale. Non ha niente a che vedere con l'accezione che poi ha preso in campo poi appunto proprio borghese. Quindi è un tentativo di fare questo rituale da parte di questa coppia non riuscito. È l'impossibilità da parte di questa coppia di toccare un certo livello di vitalità che invece in quegli anni avevano le classi proletarie, no? Adesso noi questa separazione non la facciamo più tra classi borghesi e classi proletarie, però esiste, non la chiamiamo più così, ma esiste. Io guardo con una certa compassione questi due personaggi, perché sono veramente quello che poi Pasolini sentiva anche di se stesso, insomma, l'impossibilità di raggiungere un livello di vitalità che invece persone come Franco Cicchi, come Ninetto Davoli, come poi gli attori di cui si è contornato nel suo cinema, invece avevano in maniera naturale, in maniera dirompente, assolutamente senza nessun tipo di sforzo, ecco, in maniera sbadata, come diceva lui. Questa impossibilità io l'ho sempre trovata molto forte e molto tragica, no? Perché poi le altre sue tragedie sono dedicate, penso a Bestia da Stile o a Pilade, a dei temi più dichiaratamente politici. Questo sembra parlare di un tema privato, familiare, ma in realtà è un tema politico, perché appunto l'impossibilità da parte di questa classe borghese di ritornare a un livello di naturalità, ecco, di elementarietà. E questa cosa, insomma, mi ha sempre colpito, ho sempre rilevato che questo testo fosse difficile da mettere in scena. Secondo me invece la forma lettura concerto potrebbe tirarne fuori degli aspetti. Ecco, questo era l'obiettivo che ci eravamo dati con Mariangela. Con la lettura e le musiche, su cosa vi siete concentrati? Noi abbiamo cercato di farne una riduzione, innanzitutto, cioè non leggiamo tutto il testo, ma un po' perché appunto nel contesto in cui siamo sarebbe una lettura di quasi 3 ore, ma poi perché insomma alcuni aspetti di quel discorso secondo me sono datati, no? Tutto il livello semiologico, eccetera, eccetera. Abbiamo cercato di portarlo in una zona atemporale, cioè lui l'ha scritta nel 66, però insomma questi personaggi secondo me potrebbero essere personaggi anche della contemporaneità, e abbiamo seguito la divisione che ne ha fatto l'autore in 5 episodi. Dario ci seguirà con dei suoni e delle musiche campionate live, e quindi sarà un vero e proprio, mi viene a dire, concerto, perché non avrei un'altra parola. Non abbiamo avuto modo di strutturarlo, l'abbiamo lasciato come fosse veramente una creatura aperta da giocare direttamente domenica, e stiamo provando in questo momento anche su Zoom, perché siamo tutti in città diverse. Ovviamente Dario è un sound designer bravissimo, quindi insomma cercheremo, come si fa nei certi jazz, cioè di accordarci sul palco senza nascondere, ecco appunto, la struttura aperta, ma appunto ci parleremo, Dario sarà sul palco con noi, seguendo senza tradire la struttura di Pasolini. A presto! Ciao, grazie, grazie a voi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Pietro Dattola, direttore artistico della 14ª edizione di Inventaria, la festa del teatro off a Roma in 4 teatri dal 10 maggio al 13 giugno 2024. Ben trovato. Grazie mille, buongiorno. Spieghiamo cos'è. Inventaria è la festa del teatro off, è un festival teatrale che si concentra sulla drammaturgia contemporanea messa in scena da compagnie indipendenti. Compagnie indipendenti sono le compagnie che non ricevono sovvenzioni statali, ma basano la propria sopravvivenza sugli introiti delle proprie attività. Vengono anche dette compagnie di teatro off. E il teatro off è caratterizzato quindi da una parte dalle economie ristrette, dall'altra da una maggiore vicinanza col pubblico, perché vuoi per i cast meno numerosi, vuoi per gli spazi che vengono abitati dagli spettacoli, alla fine attori e pubblico si trovano l'uno di fronte all'altro, non ci sono grandi distanze da coprire, non ci sono scenografie immense che coprono gli attori, ma c'è proprio il rapporto tra l'attore e il pubblico, e questo coinvolgimento, questa massima partecipazione è proprio la caratteristica degli spettacoli del teatro. Come si caratterizza l'edizione di quest'anno? È caratterizzata da 11 spettacoli e 6 demo, che sono dei work in progress di circa 20 minuti, divisi in 13 serate. Queste 13 serate sono sparse tra il 10 maggio e il 13 giugno e sono dislocate in 4 teatri di 4 quartieri della capitale: Carrozzieri Notte, Teatro Trastevere, Teatro Sofia, Teatro Basilica. Abbiamo 14 tra prime nazionali e prime romane, e Inventaria poi è anche un concorso, tra altre cose. Un concorso, quindi tutti questi spettacoli e queste demo concorrono per accaparrarsi i premi offerti dalla nostra rete di partner, che cresce sempre di più. Quest'anno siamo arrivati a 40 partner in 15 regioni, quindi in questo modo il festival riesce a sostenere la distribuzione degli spettacoli meritevoli. Già questi 11 spettacoli e 6 demo sono una selezione, 300 candidature ricevute, e queste meritano quindi di essere distribuite, e ci penseranno poi i nostri partner a scegliere ciò che loro capisce di più, cosa portare in giro. Com'è stata la scelta? Ogni anno diventa sempre più difficile. Noi comunque ci basiamo su un nostro principio che deriva anche un po' dal nome Inventaria, che richiama l'inventario, ma anche nella radice latina, invenio. Quindi trovare, andare a scovare. Il nostro principio è quello della varietà di linguaggi, cioè noi vogliamo offrire il più ampio ventaglio possibile di generi, di tipo di teatri, di atmosfere, di temi. Quindi l'idea sarebbe che uno spettatore che venisse tutte le sere vedrebbe spettacoli totalmente diversi tra loro, quindi non accomunati da un tema, ma invece proprio un ventaglio, un caleidoscopio di esperienze teatrali. Come saranno articolati gli spettacoli nei differenti spazi? Si parte dal 10 al 12 maggio a Carrozzeria Notte, poi il 21, il 23, il 28, il 29 maggio al Teatro Trastevere, e poi chiudiamo dal 7 al 9 giugno al Teatro Sofia e dall'11 al 13 giugno al Teatro Basilica. Il 12 e il 13 giugno saranno le serate delle demo, quindi 3 demo a serata di 20 minuti ciascuna si succederanno sul palco del Teatro Basilica, che è successivo. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? il programma si trova sul sito www.dovecomequando.net. Anche su Facebook c'è l'evento, il Festival Alimentare 2024. E annuncio anche che dobbiamo ancora metterlo a regime, però presto ci sarà come fonte di informazione anche un canale Telegram con Pioccio, la compagnia Dove Come Quando. In questo modo si potranno ricevere molto più facilmente le notizie, gli aggiornamenti, anche proprio, dico live, ma insomma, su tutto il festival. Un bilancio, visto che siamo alla 14ª magari dell'ultima edizione? Noi siamo molto contenti. Io posso fare un duplice bilancio. Il bilancio della parte organizzativa ci vede in costante crescita, appunto, dicevo, dal punto di vista delle realtà coinvolte, che sempre più spesso sono loro a contattarci per entrare in quella che vedono come una rete molto virtuosa di realtà indipendenti italiane. E dal punto di vista artistico io noto una crescita verso l'alto non solo di quello che viene proposto dal festival, ma anche di quello che purtroppo viene selezionato, ma diciamo, la concorrenza è veramente molto fitta. Questo mi fa anche pensare sullo stato generale del teatro indipendente italiano, che quando non si appoggia sulle tematiche di moda, su quello che è un po' lo scontato, emerge sempre con grande forza. Noi ci stiamo di proporre quello. 14ª edizione di Inventari alla Festa del Teatro Off a Roma in 4 teatri dal 10 maggio al 13 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro Dattola. A presto! A presto, grazie! Con Giampiero Cicciò, direttore artistico della 5ª edizione del Festival In Divenire a Roma, Spazio Diamante, dal 29 aprile al 12 maggio 2024, ben trovato. Ben trovati, grazie mille di questo spazio. Spieghiamo cos'è. Il Festival In Divenire è nato nel 2017, solo 5 edizioni perché c'è stato il Covid di mezzo, quindi abbiamo interrotto. Abbiamo ripreso l'anno scorso e questa quindi è la seconda edizione dopo la pandemia. La cosa che salta all'occhio è che il festival sta crescendo dal punto di vista della qualità delle proposte, perché ogni anno sono sempre di più le compagnie di altissimo livello che vogliono partecipare, che mandano il loro progetto, e a detta di tutti quest'anno è l'anno con appunto la più alta qualità dei progetti. Festival che nasce da un'idea di Alessandro Longobardi, che è il direttore artistico del Brancaccio, della Sala Umberto e anche dello Spazio Diamante, che per il 5º anno mi ha affidato la direzione artistica. La cosa che vorrei dire è che abbiamo una giuria formata da Annalisa Canfora, Marianna De Pinto, Gianni Guardigli, Rossella Marchi, Giuseppe Marini, Luciano Melchionna e Andrea Pokosnic. Si presentano dei progetti con delle sinossi, con immagini e video di spettacoli precedenti delle compagnie, e il progetto che viene incluso nel festival deve portare uno studio di mezz'ora, e questo studio può diventare uno spettacolo completo se vince il premio. Quindi il festival sostiene le compagnie di talento che hanno un bel progetto, che possono presentare mezz'ora e poi realizzare lo spettacolo completo. Però voglio dire che è importante non solo per quelli che vincono, ma anche per tutti i 19 progetti che partecipano, perché tutti vanno in scena e tutti possono usare, mi piace usare il termine usare, possono usare lo Spazio Diamante per proporre lo spettacolo, cioè lo studio, ai produttori, gli attori possono imitare i casting. Cioè non è facile a Roma e in Italia avere uno spazio a disposizione da usare come vetrina. Quanti sono gli spettacoli e com'è stata la scelta? Gli studi sono 19, perché appunto sono studi di mezz'ora che aspirano a diventare spettacoli completi. Nel bando richiediamo video di spettacoli precedenti delle compagnie, i curriculum e delle sinossi. Quindi con Andrea Pokosnic e Rossella Marchi abbiamo fatto questa selezione, scegliendo in base alla qualità, quindi ai curriculum, ma soprattutto in base all'idea e al progetto, che per noi quest'anno ha un valore superiore rispetto agli altri anni. Quest'anno sono arrivati progetti che parlano di temi molto molto attuali, ma anche universali, cioè loro attraverso l'oggi raccontano delle dimensioni dell'essere umano, delle cose che appartengono a noi e appartenevano ai nostri predecessori. Quindi la cosa che più colpisce quest'anno di quasi tutti i lavori è l'universalità dei temi trattati, e quindi abbiamo scelto anche in base a queste suggestioni che ci sono arrivate attraverso i progetti arrivati alla mail. Dopodiché io ho contattato alcuni referenti, registi o gli autori per farmi raccontare meglio, e insomma alla fine su più di 100 progetti ne abbiamo scelti appunto 19. E poi vorrei raccontare degli ospiti, e poi ti do una notizia in anteprima perché la dobbiamo ancora annunciare. E gli ospiti sono Filippo Timi, che il giorno dell'inaugurazione, il 29 di aprile, ha presentato uno studio sulla sua Salomè, studio perché voleva anche lui fare uno studio in divenire, e poi farà ad agosto un spettacolo completo. E poi avremo Pia Lanciotti, che è una delle più grandi attrici del teatro italiano, adesso sta facendo Mare fuori nel ruolo della boss, la mamma del protagonista, quindi ha anche raggiunto una bellissima popolarità, e che premierà i vincitori il 12 di maggio. E poi appunto, se voi andate nel sito www.festivalindivenire.it, potete vedere il calendario di tutti questi studi. La notizia in anteprima è che avremo 4 attrici tra le più importanti del teatro italiano, giorno 11 alle 17:30, giorno 11 maggio, e racconteranno appunto il loro percorso teatrale. Hanno lavorato con tutti i più grandi maestri del teatro italiano, da Ronconi a Castri, a Massimo Popolizio, a Strehler, e sono Manuela Mandracchia, Alvia Reale, Sandra Toffolatti e Mariangeles Torres. Tra l'altro loro anni fa hanno creato un gruppo, tutti e quattro insieme, che ha vinto tutti i premi possibili che si assegnano in Italia ai più meritevoli spettacoli, il premio UBU e tutti gli altri premi prestigiosi. E questa è una cosa alla quale tengo molto, l'11 maggio. Poi è ingresso libero, 17:30, Spazio Diamante, che è in via Tremestina, ma sul sito www.festivalindivenire.it trovate tutti i riferimenti. Quinta edizione del Festival in Divenire a Roma, Spazio Diamante, dal 29 aprile al 12 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giampiero Ciccio. A presto! Grazie a voi davvero per la vostra attenzione sempre. Con Veronica Olmi del Teatro Villa Panfili per presentare la quarta edizione di Immagina, Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, a Roma e Ostia dal 9 al 12 maggio 2024. Ben trovata. Ciao, grazie a voi di avermi invitato. Di cosa si tratta? Si tratta di un festival diffuso in tante parti della città di Roma, un progetto ambizioso che portiamo avanti da 4 anni, perché fare una cosa del genere in piccole città è una cosa, farlo a Roma è una follia, ma a noi le follie piacciono, e quindi dal 9 al 12 maggio saremo al Teatro Villa Panfili, al Teatro della Biblioteca del Quarticciolo, al Teatro del Lido di Ostia e al Museo delle Civiltà all'EUR. In questi spazi si svolge il festival, un festival internazionale. Sono 4 giorni, 12 spettacoli per 40 repliche, perché ognuno potrà scegliere di vedere lo spettacolo o partecipare al laboratorio che preferisce, scegliendo il luogo più comodo. 7 laboratori per l'appunto, 30 artisti coinvolti provenienti da 8 paesi del mondo, tutto questo fatto come sempre, come piace a noi, e cioè con una direzione artistica partecipata, condivisa, e delle 4 strutture che hanno pensato questo festival e che lo organizzano. Com'è stata la scelta artistica? Già nel mese di dicembre noi abbiamo fatto una call internazionale in cui abbiamo invitato compagnie e artisti a presentare le loro proposte, i loro progetti. Ne sono arrivati più di 100, una giuria condivisa della direzione artistica li ha visionati tutti, qualcuno siamo riusciti a vederlo dal vivo perché è capitato che qualcuno di noi stava in alcuni festival dove queste produzioni venivano presentate, altri ovviamente con dei video integrali, e quindi dopo accese discussioni e cercando come sempre di assortire il più possibile, ma anche di fare i conti col il denaro, perché poi fare compagnie da tanti paesi, ospitarle, pagarle un cachet è comunque oneroso, e trovando la solita via di mezzo abbiamo cercato di conciliare tutto e abbiamo tirato fuori questi 12 spettacoli diversi. Vengono dalla Spagna, dal Paraguay, dalla Bulgaria, dalla Francia, dalla Turchia, e molto diversi tra loro, perché appunto è un festival di teatro di figura, quindi troveremo marionette, burattini, ombre, per esempio dalla Turchia, garbage mostra, narrazione, teatro d'attore, commedia dell'arte e anche due piccole chicche, una viene dall'Italia e spettacoli proprio micro, perché sono per uno spettatore alla volta, durano 3 minuti o 5 minuti, si replicano nella giornata più volte, quindi c'è anche questa esperienza di spettatore solitario per micro spettacoli molto curati, sempre come omaggio al teatro di figura. Come si articoleranno nei quattro spazi? Da giovedì 9 fino a domenica 12, sia la mattina che il pomeriggio, secondo un programma che si trova, basta andare su www.teatriincomune.it oppure Museo della Civiltà, si trova poi il dettaglio di tutti gli orari, sia la mattina che il pomeriggio ci sono sia spettacoli dal vivo che attività laboratoriali e nell'arco dei quattro giorni sono previste anche le presentazioni di due libri, uno è Intrecci, un lavoro condiviso dal Teatro Ragazzi e Teatro di Figura pubblicato da Unime Italia e da Citege, lo presenteremo venerdì 10 a Teatro Villa Confili, per esempio. Invece il sabato presenteremo il libro scritto da Giuseppina Volpicelli, dove racconta della sua vita artistica e della sua mamma Maria Signorelli, lo presenteremo il sabato alle 12 al Museo delle Civiltà, ed è proprio un tuffo in questa esperienza incredibile di Maria Signorelli e del teatro di figura del Novecento di cui è stata protagonista. Tutte le proposte sono a ingresso gratuito, cioè gli incontri, i laboratori, le presentazioni dei libri e le mostre, e solo gli spettacoli sono a pagamento, ma a un prezzo popolarissimo di 7 euro e ridotto a 5 euro, e per gli studenti del DAMS della Sapienza e Roma 3 addirittura il biglietto di cortesia a 3 euro. Com'è lo stato dell'arte del teatro di figura? Direi ottimo, gode di ottima salute, perché c'è tanta voglia, tanta ricerca, tanta passione e tanto incontro, secondo me, tra passato, presente e l'idea di futuro che si vuole avere di questa arte veramente tra le più antiche. Certo è che il nodo più critico, e con questo festival noi vorremmo un po' anche dare un segno, una mano a questo nodo critico, è quello appunto della circuitazione, del poterli poi fare questi spettacoli, di poter incontrare il pubblico e raccontare la propria esperienza artistica, la propria ricerca artistica. È un po' il problema non solo del teatro di figura, io credo, ma il teatro in generale, che rispetto appunto al teatro del Novecento che abbiamo nominato parlando di Maria Signorelli, io credo che sia una delle tematiche attuali è proprio questo, la circuitazione degli spettacoli, la possibilità di fare repliche, di incontrare il pubblico, di portare il pubblico a teatro a vedere gli spettacoli più pari possibili e di qualità e avere anche degli spazi pronti ad accoglierli. Io credo che in Italia stiamo soffrendo un po' questa situazione, i festival come questi io credo possano dare una mano, anche se la fatica c'è e l'attenzione delle istituzioni, che poi significa anche un sostegno economico, perché possono essere accessibili da tutti, e c'è un po' di distrazione, chiamiamola così, e forse ci vorrebbe più interesse, più attenzione, più sostegno come in decenni passati c'è stato. Quarta edizione di Immagina, Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, a Roma e Ostia dal 9 al 12 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Veronica Olmi del Teatro Villa Panfili. A presto! Grazie! Con Alessandra Muschella, direttrice artistica della settima edizione di Gallerie d'Arte Urbana a Roma, Cinecittà. Ben trovata! Ciao a tutti! Cos'è GAU? Che progetto è? GAU è un progetto che nasce 7 anni fa, ed è un progetto di decoro dell'arredo urbano che abbiamo iniziato nella periferia est di Roma. Il nostro progetto si pone come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica della differenziazione dei rifiuti. Quindi abbiamo scelto un oggetto considerato non tanto bello da vedere, quindi il cassonetto per la raccolta del vetro, e ogni anno scegliamo un tema facciamo lavorare degli artisti su queste campane decorandole con diverse tecniche, sia pittoriche che a bomboletta. Il nostro obiettivo è quello di regalare un po' di colore a una zona della città. Roma, sappiamo, è molto difficile gestire la differenziata dei rifiuti e la raccolta. Noi abbiamo deciso di far vedere come, prendendosi cura di alcune zone, di alcuni oggetti del arredo urbano, le nostre città possono diventare più belle. Com'è stato il percorso di queste 7 edizioni? Inizialmente un po' difficile, perché non ti nascondo che venivamo visti con sospetto, perché vedere un ragazzo che dipinge o che usa una bomboletta per decorare una campana inizialmente veniva visto come un atto di vandalismo. Poi negli anni queste campane sono diventate riconoscibili sempre più come un intervento appunto artistico, e adesso lavoriamo in piena armonia sia con le istituzioni, con AMA, con i municipi che ci ospitano e soprattutto con i cittadini che ci accolgono sempre con molto affetto. Com'è stata la scelta artistica di questa edizione? Questa edizione è nata dalla voglia, in un momento di rinascita del cinema italiano, di affrontare proprio il tema dei grandi classici del cinema. Abbiamo partecipato a un bando per chi crea, che è un bando della SIAE che promuove le nuove opere e i nuovi artisti under 35, e grazie al loro contributo abbiamo deciso appunto di lavorare col collettivo Molecole, Gaia Flaminio e Virginia Volpe, due bravissime artiste under 35 che hanno realizzato praticamente tutte le 12 opere che si scopriranno domani. E l'idea era appunto quella di scegliere i grandi classici del cinema italiano che potessero mostrare, rappresentare tutti quelli che sono stati i grandi nomi, non solo i registi ma gli attori e le attrici. Le ragazze hanno dato molto rilievo alle figure femminili ed è bello vedere per strada anche la gente che gioca a riconoscere i film in base all'interpretazione che le ragazze hanno dato delle pellicole. Quanti sono e quante sono gli artisti e le artiste coinvolte e quante sono le installazioni? Quest'anno le artiste coinvolte sono due, è un collettivo artistico tutto al femminile. In questi 7 anni gli artisti coinvolti sono stati più di 50, le opere realizzate più di 150, ormai staremo su quasi le 200. Quest'anno le campane realizzate sono 12, ma in realtà su ogni campana ci sono più opere, sai, la campana è fatta con diversi lati, quindi sulla stessa campana sono riuscite a realizzare 3-4 opere relative al film scelto sul porta appunto della campana. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Trovate tutto sulle pagine Progetto Goldstein, Instagram, Facebook, TikTok e tutti i social. 7ª edizione di Gallerie d'Arte Urbana a Roma, Cinecittà. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Alessandra Muschella. A presto! Grazie, ciao! Con Cinzia Asciuto, co-direttrice di Micromega, per presentare il numero monografico Liberiamoci del Patriarcato. Ben trovata. Grazie, ben trovato a te e a tutti voi che ascoltate. Raccontiamo un po' di questo numero, ce ne parli? Quel numero è nato intorno all'autunno, intorno alle emozioni scatenate dal femminicidio di Giulia Cecchettin e in particolare attorno al movimento che si è creato grazie all'intervento della sorella Elena, che ha compiuto un passo molto importante, cioè ha tirato fuori la vicenda di Giulia dalle mura di casa, dalle mura domestiche, e l'ha trasferita su un piano politico, che è il luogo dove deve stare. Elena Cecchettin ha detto testualmente: il femminicidio non è un delitto passionale ma di potere, è un omicidio di Stato. Quindi ha riattualizzato uno slogan che è tipico del femminismo, cioè il personale è politico. Queste vicende di violenza nei confronti delle donne non si consumano tra le mura domestiche, ma sono una questione politica che ci riguarda tutte e tutti, sia come istituzioni che come società. Facciamo un passo indietro per chi ci ascolta, raccontiamo la realtà Micromega. Micromega è una rivista di cultura, di politica, ma è soprattutto una rivista militante, una rivista che pensa che fare cultura significa soprattutto lavorare per cambiare questa società. Esiste dal 1986, è stata fondata da Paolo Flores d'Arcais e da quasi 40 anni resiste contro ogni previsione, tra l'altro, perché è una rivista mattone, come spesso veniamo definite, è un bimestrale che esiste ancora, lo ricordo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, esiste ancora cartaceo in libreria, ma naturalmente adesso nel 2024 ha anche una sua versione digitale, dove continuiamo le nostre battaglie per una società laica e democratica. Torniamo al numero in questione. Com'è stata la scelta delle interlocutrici? Il numero è diviso in due parti, possiamo dire. Una di analisi del fenomeno patriarcato. Questa parola patriarcato è una parola che è riemersa nelle settimane attorno alla vicenda di Cecchettin, come struttura che sottostà alle nostre relazioni sociali. Tante a livello legislativo, molti degli istituti tipici di una società patriarcale sono stati eliminati o quasi del tutto eliminati, almeno nei nostri paesi, però a livello sociale rimane una struttura profondamente patriarcale. Quindi c'è una prima parte in cui una serie di saggi e interventi di antropologi, di storici, storiche, di filosofe analizzano il concetto di patriarcato nel corso del tempo. E poi c'è una ampia, una grande sezione a più voci, l'abbiamo chiamata, in cui abbiamo individuato una serie di intellettuali, attiviste, femministe, scrittrici, donne che si impegnano nel loro lavoro quotidianamente per i diritti delle donne, a cui abbiamo posto una serie di domande. Abbiamo chiesto appunto che cos'è secondo loro il patriarcato, se ha ancora senso parlarne, che cos'è il femminismo, che cosa significa per loro essere femministe e che cosa si augurano per il movimento delle donne. E abbiamo deciso di metterci in ascolto scegliendo persone e voci che hanno approcci anche molto diversi fra di loro, perché il femminismo è molto plurale, in particolare in Italia, e in alcuni casi anche contraddittorio, comunque non è monolitico, e quindi abbiamo deciso di rendere conto di questa varietà, di questa pluralità che c'è nel mondo del femminismo italiano. Che suggestioni e stimoli sono venuti fuori dai vari interventi? Innanzitutto è venuto fuori, secondo me, una grande consapevolezza del proprio ruolo politico come soggetto politico. E un altro elemento che è venuto fuori, che a me ha fatto molto piacere, è soprattutto lo sguardo verso fuori, verso l'esterno, per esempio alle sorelle iraniane che stanno conducendo probabilmente quella che è la più avanzata e la più radicale delle proteste del movimento delle donne attualmente in tutto il mondo, ma non solo, penso anche alle donne in Polonia che da anni ormai in maniera regolare scendono in piazza e riescono a far fronte agli attacchi della destra, per esempio penso al diritto all'aborto. Ecco, le suggestioni sono quelle legate all'idea che nonostante le differenze credo che ci sia ancora un cuore comune a tutte le femministe, che è quella della autodeterminazione femminile, della autonomia come soggetto politico delle donne. Come sono pensati questi eventi di presentazione? Sono nati in maniera abbastanza spontanea. Abbiamo chiesto a tutte le amiche che hanno partecipato al volume di darci la loro disponibilità e poi abbiamo segnalato l'uscita del volume a tutta una serie di realtà femministe in giro per l'Italia, chiedendo chi aveva voglia di organizzare qualcosa, perché noi chiaramente, essendo una rivista molto piccola, non abbiamo le risorse umane e finanziarie per organizzare tutto, e quindi sono molto felice che in questo caso alla Casa delle Donne, ringrazio la Casa delle Donne e in particolare Anna Maria Crispino di Feminist, che ha partecipato anche al volume e che si è incaricata di organizzare questo incontro. E in generale tutti gli incontri in tutto il territorio italiano partono un po' così, spontaneamente, da realtà locali radicate sul territorio che hanno voglia di interloquire con noi. Tutti i riferimenti web per saperne di più? Il nostro sito www.micromega.it. Lì trovate innanzitutto i nostri aggiornamenti, articoli anche su altri argomenti di attualità, tutte le informazioni per abbonarsi e poi anche su tutte le nostre pagine social. Ci trovate ovunque, Facebook, Instagram, Twitter. Il numero monografico di Micromega dal titolo Liberiamoci del patriarcato. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice Cinzia Asciuto. A presto! Grazie a voi, a presto! È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana, soprattutto di teatro, ma anche eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. E dunque, cominciamo dal nostro teatro Tor Bella Monaca, dal 9 all'11 maggio, ovvero sia questi da giovedì fino a sabato, interno camera. Paolo Giglio, che abbiamo conosciuto, ho visto un po' di spettacoli suoi, ed è un testo che è nato all'interno di un laboratorio di Lucia Calamaro, la stessa Paola Giglio in scena con Marco Prosperi, la direzione di Marcella Favilla. Si tratta di una storia tragicomica, ma insomma in cui però si parla di depressione, è raccontata da due trentenni precari in un mondo che va troppo veloce, quindi ecco insomma un po' il dramma dei drammi, il problema dei problemi in qualche modo. E però molto interessante, lei è da seguire molto, perché insomma è un'autrice che va considerata, insomma, e mi fa piacere poterla segnalare. Allora, dunque, procediamo, perché appunto abbiamo anche Paesaggi, che comincia dal 12 maggio, quindi insomma da domenica, Portraits on Stage, la prima sessione del festival, questo Paesaggi sul dialogo col territorio, e comincia ad Arsoli al Teatro Comunale della Felice con Young Portraits, che è un contenitore, diciamo, multidisciplinare con Matilde Zavagli, e viene realizzato con la compagnia Teatri d'Imbarco di Firenze. E quindi cominciamo appunto dal Teatro di Arsoli, ma poi ci saranno appuntamenti fino a giugno, che ricorderemo insomma un po' nei prossimi incontri. E dunque invece Roma questa settimana vive ben due festival. Il primo è già, diciamo, in corso d'opera dalla scorsa settimana e va a concludersi proprio con questa settimana, il Festival in Divenire allo Spazio Diamante, che andrà avanti fino appunto al 12 maggio. E la seconda tranche degli spettacoli da questa sera saranno in scena fino all'11 maggio, giorno in cui ci sarà insomma l'incontro con Morella Mandracchia, con la compagnia Miti Pretese, perché vedo insomma c'è oltre Morella Mandracchia Avia Reale, Sandro Toffolatti, Marian Celeste Torres, che appunto danno vita a questa compagnia, e con la direzione artistica di Giampiero Ciccio. Il festival andrà a concludersi proprio il 12 maggio, domenica, con la premiazione dello spettacolo vincitore. Sul sito invito ad andare a vedere insomma, diciamo, la sequenza di spettacoli, che sono molti, e segnalo semplicemente che stasera ci sarà uno spettacolo che può interessare anche chi è tifoso di calcio e che può fare un viaggio all'interno della propria storia calcistica, perché diciamo, la storia politica calcistica in qualche modo, perché questa sera ci sarà proprio lo Spazio Diamante, Il cuore debole di Antonio, dedicato alle 21, dedicato alla vicenda che porterà all'omicidio di Antonio De Falchi, tifoso romanista che morì 35 anni fa a Milano in una trasferta milanese. E quindi poi andiamo ancora avanti, l'altro festival, Inventaria, invece apre proprio in questi giorni, andrà avanti poi fino a giugno. Dal 10 maggio ci sono 18 compagnie provenienti da tutta Italia, la compagnia Dove, Come, Quando, ancora per la 14ª edizione, direttore artistico Pietro D'Attola, con Flavia Delizis, appunto convoca in vari spazi di Roma, quattro teatri in quattro diversi quartieri. Si comincia con Le carrozzerie notte per questa settimana, e andremo a vedere dal 10 maggio alcuni lavori. Pira Buonocore presenta Opera Viva con Ruggeri Maria Chiara Montella il 10 maggio, l'11 Eterno ripetersi banale con la Ruggeri Matteo Ciccantini, e Out Left, regia di Alessandro Sesti, il 12 di maggio. Queste sono tre opere in concorso che andremo appunto a vedere al Teatro delle Carrozzerie Notte per Inventaria. Io seguo ancora perché al Teatro Parioli arriva Conversazioni dopo un funerale, 7 e 8 maggio, quindi oggi e domani, per questo testo di Yasmina Resa con la regia di Filippo Gentile. Su questi però vado un po' più rapidi. Dal 9 ma 9 10 maggio in realtà due spettacoli al Teatro Lo Spazio con Mindy, Independent Minds Fest 2024, presenta due diversi spettacoli, una rassegna, questa il Mindy, che si propone di dare spazio a lavori indipendenti, spettacoli di teatro ma a carattere musicale, e i due spettacoli che vedremo questa settimana saranno Spotlight on Women di Silvia Di Stefano, Minio Stranieri, Ilenia Albanese, mentre invece il 10 maggio Chi ha rubato la primavera di Silvia Di Stefano, e il testo è di Lena Biolcati. Lena Biolcati, che se non vado errato, una cantante che ricordo dagli anni 80, insomma, ero piccolo, però quell'essere piccolo non mi ha fatto dimenticare la voce di Lena Biolcati, quindi la ricordo con piacere, e a nome dell'appunto lo Teatro allo Spazio il 10 di maggio. Proseguo, perché alla Fortezza Est 9-10 maggio ancora in scena una buona compagnia, perché Mirko Russo scrive e interpreta questo Radio Favola con la regia Enrico Torzillo 9-10-11 maggio. Uno speaker introduce il pubblico nella puntata del programma radiofonico Radio Favola. Ogni giorno come ospite c'è un personaggio del mondo delle fiabe, quindi ecco, molto interessante capire insomma il personaggio delle fiabe, come si relaziona a questa intervista con le storie personali, le suggestioni che dà la fiaba, no? Finiscono poi per contagiare le questioni del nostro contemporaneo. Quindi 9-10-11 maggio, la Fortezza Est, questa cosa che direi divertente, con Radio Favola. Teatro Vittoria invece, Le Balle di Jean-Claude Pinchenat, la regia di Giancarlo Fares, l'Italia balla dal 1940 al 2001, quindi uno spazio piuttosto ampio, 60 anni di storia, che vedremo dal 7 al 19 di maggio appunto al Teatro Vittoria, con attori e danzatori, quindi ecco, uno spettacolo originale che ha a che vedere anche con la danza, non solo con il teatro, con la musica, con i costumi, ecco insomma uno spettacolo totale quello che si propone, Le Balle al Teatro Vittoria dal 7 al 19 di maggio. Poi al Centro Culturale Artemia dall'11 al 13 di maggio Matteo Pantani presenta questo Una persona con in scena Elena Biagetti. Un monologo cui c'è una donna sola in scena che cerca di destrutturare un po' quelli che sono i luoghi comuni del monologo femminile, e cercando un po' di far vedere un po' i rapporti tra l'autore e l'attrice, tra il testo e la messa in scena, chiaramente per identificare un po' tutto questo all'interno un po' della riflessione più ampia, con autoironia, ma certo sicuramente la riflessione rimane seria sull'importanza dell'arte e degli artisti in questa società. Quindi Una persona dall'11 al 13 maggio al Centro Culturale Artemia. Comincia il 12 maggio alla Basilica di San Sebastiano fuori le mura sulla Pia Antica il Festival Internazionale di Storytelling, andrà avanti fino a fine giugno, quindi io tanto lo segnalo perché insomma c'è la prima assoluta il 12 maggio dello spettacolo Ad Catacumbas sulla vita e la leggenda di San Sebastiano, una performance site specific la sera alle 20:30 per aprire il festival, poi insomma proseguirà nei giorni, nelle settimane successive. Poi al Teatro Torlonia dal 9 al 12 maggio un misero spasso della raccolta di poesie metroromantici dei poeti del Trullo a cura di Lorenzo Parrotto, Francesco Giordano, Riccardo Parravicini, Roberta Azzarone, che appunto aprono questo squarcio sulla produzione poetica dei nuovissimi romani, ecco, non la chiameremo così, della nuovissima produzione romanesca che poi insomma vediamo talvolta in giro per le città appesa ai muri, quindi è una poesia che cerca di dialogare un po' come Pasquino, no? Con la popolazione, e questa volta invece raggiunge il Teatro Torlonia per questa street poetry che insomma è diventato un vero e proprio movimento, e riconosciamo le firme insomma tutte rigorosamente in lingua, Erbestia, Erquercia, Marta del Terzo Lotto, insomma eccetera eccetera, e saranno appunto protagonisti di questo a Roma Non Gli Frega 9-12 maggio Teatro Torlonia con la poesia. Mentre invece al Teatro Spazio 18B 9-12 maggio Marco Iurlaro presenta il suo lavoro Limbo, interpretato da Agnese Ascioti, si tratta del racconto della vita di un individuo scarabocchiato appena su un pezzo carta, un disegno nervoso, interrotto, insomma, la ricerca disperata della rutina continua, le figure in cui riconoscersi. E questo in qualche modo, no, ci rimanda anche alla serie di Zero Calcare, quello sta lungo i bordi che un po' ci cerca di seguire questa linea, considerare la vita umana un po' come un tratteggio, come una linea che a volte è dritta, a volte metaforicamente si perde in magari in linee senza una conclusione che magari vorticano intorno. Quindi Limbo, dal 9 al 12 maggio al Teatro Spazio 18B. Procediamo, perché dall'8 al 19 maggio al Teatro India ci sarà una giornata fatale del danzatore Gregorio Samsa, quindi spettacolo che nasce nella collaborazione tra Eugenio Barba e Giulia Farley, con Lorenzo Gleiesis, che appunto sarà in scena dall'8 al 19 maggio, dedicata ovviamente al capolavoro di Franz Kafka, Le Metamorfosi. Appunto, Gregor Samsa è il personaggio del racconto, e appunto questo percorso iniziale di affiancamento di Eugenio Barba con Lorenzo Gleiesis ha portato poi alla coreografia di Michele Di Stefano, le musiche di Mirto Baliani. Insomma, ci sono tutti gli elementi, Kafka chiaramente, che è una certezza da questo punto di vista, tutti gli appuntamenti, tutti gli elementi per andare a vedere questo spettacolo ci sono dall'8 al 19 maggio, una giornata fatale del danzatore Gregorio Samsa, Teatro India. Al Teatro Vascello continua invece fino al 12 maggio, già dalla scorsa settimana, Ultimi crepuscoli sulla terra, ispirato all'opera letteraria di Roberto Bolaño, con la regia, la drammaturgia di Fabio Condemi, e con le scene e la drammaturgia delle immagini di Fabio Kerstich. Poi la settimana prossima ci sarà un altro spettacolo, Ultimi crepuscoli sulla terra, appunto ritrova la scrittura di Bolaño, cercando di entrare all'interno di quella qualità visionaria ma anche molto affilata che troppo presto, insomma, ha lasciato i propri lettori, e questo è indubbiamente un interesse importante per chiunque conosca la scrittura di Bolaño. E poi invece al Teatro Belli, Sargis Galstian scrive e dirige questo La Casa delle Api, dal 7 al 19 di maggio, un dramma con Melisso De Sapi e Deborah Moncinelle, che porta, diciamo, uno dei due protagonisti, Melisso, ricoverato in un ospedale psichiatrico che sta per suicidarsi, è un linguista e tende ad analizzare ogni evento della sua vita in modo alquanto paradossale. La dottoressa Deborah Moncinelle dimostra invece una certa razionalità, di essere inserita nella società, ma anche lei ha un trauma. Il confronto chiaramente tra i due è il cuore di questo spettacolo, con la regia appunto di Sargis Galstian, regista armeno che presenta questo lavoro in Italia. E andremo appunto al Teatro Belli dal 7 al 19 di maggio. Io ho ancora qualcosina da dire, soprattutto vado con ordine fantastico al Teatro da giovedì 9 a domenica 12 andremo a vedere questo spettacolo E tu che mito sei, di Giuseppe Sorgi, dedicato appunto alla mitologia. Chiunque fosse interessato alla mitologia assolutamente non deve dimenticarlo. E ricordo poi altri tre appuntamenti: il primo al Teatro Basilica, Uccidiamo il Re, scritto e diretto da Massimiliano Aceti, che sarà in scena solo questa sera ancora, e poi altri due lavori che sono, diciamo, abbastanza imperdibili. Il primo all'Argentina, dal 7 al 19 maggio, L'arte della commedia, con appunto il testo di Edoardo De Filippo, adattato da Fausto Russo Alesi, che già lo sta in scena, se non sbaglio, lo scorso anno qui all'Argentina. Uno spettacolo, la commedia, insomma, fa parte della raccolta di Giorni dispari, quelle commedie scritte dal dopoguerra in poi, che affrontano le difficili e problematiche questioni del vivere quotidiano proprio nel tempo del dopoguerra. È stata scritta nel 1964, un'opera non frequentatissima di Edoardo, e ci fa confrontare, insomma, con la censura della cultura, che insomma troppe volte viene vista come un nemico della società, quando invece è probabilmente il motore dell'evoluzione di una società. Dal 7, da stasera, al 19 di maggio al Teatro Argentina. Mentre invece vado a concludere con il festival Immagina, che dal 9 al 12 maggio sarà al Teatro Quarticciolo, il Festival Internazionale del Teatro di Figura. E ci saranno tanti appuntamenti, da ricordare sicuramente due appuntamenti che vorrei segnalare con cura. Il primo è il Mare una conchiglia. Ignazio Bortot ci porta in un viaggio visivo e sonoro come in un sogno ad occhi aperti, infatti lo spettacolo è per due spettatori alla volta, e sarà sabato 11 maggio alle ore 17, mentre alle ore 19, sempre sabato 11 maggio, la compagnia che ben conosciamo, Factory, diretta da Antonio De Mitto, presenta Piccolo Sushi, un mondo di suoni evocati, desideri portati dal vento, che prendono corpo davanti agli occhi meravigliati. Quindi insomma, io direi che grandi e bambini non possono dimenticare questi giorni del Festival Immagina, perché è il Teatro Figura di Roma. E con questo direi che è tutto. Ciao! Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.